Martedì altri suoni, sono le 7:46 minuti di questo primo giorno d'ottobre 2024. Altri suoni con la collaborazione di Angelica dal Centro di Ricerca Teatro San Leonardo di Bologna, che riprende una programmazione forbita appunto per un ascolto diverso, per avere un'attenzione a note che alzano l'asticella del contenuto sonoro e ci permettono di conoscere intersezioni culturali ed emotive fondamentali. Avremo per domani, quindi questo è un po' un last minute se vogliamo, oltre che di altri suoni, il contrabbassista, violoncellista e bassista Simone Di Benedetto, attivo nel campo della musica contemporanea, nell'improvvisazione e autore di musiche in collaborazione con attori, narratori, compagnie di danza e registi. Apre questa seconda serata della stagione con il progetto Mandala, ma non finisce qui. Per quanto riguarda il seguito, per quello che è programmazione di domani per Angelica, troveremo anche un'altra presenza di cui vi parlerò nella seconda parte di questo breve spazio. La musica come invito ad abbandonare le aspettative e ad accogliere la bellezza del momento presente. Sono le dichiarazioni dello stesso autore Simone Di Benedetto, dal quale ho preso alcune note. Mandala appunto è il nome del progetto, ne ascoltiamo breve traccia, in quanto oltretutto dalle parole di introduzione che vi ho appena portato è chiaro che certe sonorità vanno vissute nel contesto, possono risultare strane dalla diffusione radiofonica, ma vissute nel contesto del Teatro San Leonardo, vissute appunto come vi ho detto lo stesso autore con lavori vicino ad attori, narratori, compagnie di danza, registi, sono colonne sonore di emozione. Beh, ascoltiamo Iridescence dal progetto Mandala e poi torniamo in diretta. A tra poco. La musica come invito ad abbandonare le aspettative, ad accogliere la bellezza del momento presente. Una situazione d'ambiente, un abbraccio costante che l'autore polistrumentista in maniera colta va a portare. Decisamente colonna sonora di stagione per questo inizio mese di ottobre, ma non solo. Ne troviamo in maniera poliedrica note, certamente puntellate di qualcosa di forte, incisivo e allo stesso tempo di distensione nel tempo e nello spazio. Lui è Simone Di Benedetto, la programmazione è di Angelica alla seconda serata d'appuntamento. Come sapete, nella piccola rubrica Altri Suoni seguiamo tutto ciò con grande attenzione. Grazie a Massimo Simonini, direttore artistico, ai curatori di Angelica per il prezioso lavoro di diffusione culturale e musicale. Solo un'apparenza quello che viene nell'immediato definito uguale, perché in realtà in ogni traccia, in ogni partenza di questi reiterati motivi musicali vi è sempre qualcosa che va ad aggiungersi oppure che viene a diversificare la narrazione sonora. Come vi ho detto, la serata sarà portata poi da un'altra presenza. Per quanto riguarda la giornata di domani, ci sarà il compositore, improvvisatore e curatore di musica sperimentale Javier Areal Velez, è il secondo nome della serata, una ricerca musicale capace di intrecciare l'elettronica all'intelligenza artificiale, l'uomo alla macchina. Un robot autonomo che vive in un computer genera ritmi di complessità extraumana, pensata per far smuovere anche il pubblico più deforme. Questa è la presentazione che lo stesso Javier dà per introdurre il lavoro di domani. Dalle ore 19:30 si inizia con Simone Di Benedetto, seguirà Javier Areal Velez dall'Argentina. Questo per quanto riguarda una sintesi di quello che sarà domani ad Angelica. Yeah, I might turn the receipts off my WhatsApp. I might go on the settings, need more privacy. I don't want nobody seeing my last scene. But see, I like going to break, yeah, see you in light. With me and not love is a feeling without an end. Jamahal Williams, giovane, un contraltista che ha portato note in un modern jazz che sa flirtare con l'elettronica e con il gusto. Ci fa da traghetto per arrivare alla pubblicità e partire ufficialmente con un speciale Move to Groove con ospite in diretta. Per la prima volta avremo un direttore di gara all'interno di questo aspetto tra basket e filosofia sui 103.1. A breve non perdete il Move to Groove, vi invito a partecipare al 333-180-9494 tra SMS e WhatsApp per comunicazione e co-conduzione in diretta. A tra pochissimo.